abbiamo reinserito come sistema di garanzia, privilegiando il merito sportivo, il ricorso ad un format diverso, così come ha sempre auspicato anche la UEFA, playoff e playout, prima di far ricorso eventualmente all'algoritmo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io oggi ha vinto il calcio. Abbiamo dal primo momento sostenuto l'esigenza di non rimanere fuori dal panorama internazionale. Ma io credo che qui non ci siano vincitori o sconfitti. C'è una situazione anomala, perché oggi siamo stati un po' messi dietro la lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale, abbiamo perso la nostra rivendicazione. Posso criticare quello che è un sistema di governo ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante componenti, e quindi è giusto, il mio giudizio invece, che la Serie A abbia una sua autonomia. Ritroveremo un rapporto di grande compattezza, ci coordineremo con tutte le componenti, compresa la Lega di A, che non esce sconfitta. Non sono state accolte alcune richieste, non in linea con quanto già stabilito il 20 di maggio, ma soprattutto c'erano dei principi a cui ispirarci, merito sportivo. Gravina e Marotta a nome della Serie A, battuta, presa a schiaffi, dice Marotta. Questo è l'argomento, l'oggetto del contendere. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Ciao Antonello Valentini. Ciao, buongiorno. Grazie ciao. Dell'invito. Ciao, pensavo che ciao. Con la ripresa del campionato vi tocca lavorare. No, è la verità, abbiamo mai smesso, mio caro. No, ci vediamo. Però ci facciamo una cena alla Vino Bono prima di andare, prima di ricominciare, è fondamentale. Pensavo. Senti Antonello, prima di passare a schiaffi e buffetti tra Serie A, Federcalcio, eccetera, dato che poi affronterò l'argomento, lasciami un tuo ricordo di Italia 90. Ah, il mio ricordo di Italia 90 è che c'ero ancora in gola a quel titolo, perché eravamo, secondo me, la squadra che giocava meglio, avremmo dovuto vincere quella maledetta partita di Napoli con un'uscita avventata. Io mi becco ancora con Walter Senka ogni volta che ci troviamo, perché lui continua a sostenere di non aver sbagliato, io continuo a sostenere che se fosse rimasto in porta avrebbe presa come a palla rilanciata. E poi però devo dire che la squadra trovò la forza, il coraggio, la determinazione per tirarsi fuori da una situazione che era molto pesante. Io mi ricordo il viaggio di ritorno in pullman da Napoli a Roma, e sembrava di stare a un funerale praticamente, il pullman con le luci spente, sì. Nessuno che diceva una parola. Poi ritrovò il coraggio, la forza per vincere la finale del terzo posto, e fu una bella festa anche quella. Però certamente è dura da digerire a distanza ancora di 30 anni. Sicuro, lo sarà sempre uno dei dolori sportivi più grandi che ci sia toccato subire. Esatto. Invito anche gli ascoltatori a lasciarci i loro ricordi, ne parleremo più tardi, dopo la borsa. Io ne ho subiti più di uno, la verità, però... Ma quello lì era tutto talmente bello, talmente perfetto. Qual è quello che fa più male? Scusa se metto il dito nella piaga. Qual è quello che fa più male? Potendone cambiare una, quale cambieresti? Usa 94, perché lì ho perso 5 anni di vita grazie ad Enrico Sacchi che ci ha massacrato. Antonio, non te lo faccio dire, se si gioca come dico io si vince, e se si gioca si vince, invece venire i capelli bianchi negli Stati Uniti. Quando sento parlare adesso delle obiezioni se giocare 6:30, come si fa, eccetera, noi abbiamo Pasadena, giocato negli Stati Uniti a Pasadena all'ora di pranzo, alle 12:30, alle 13, alle 14:30. siamo seri. Non furono grandi partiti in realtà, nonostante la tensione emotiva. Invito gli ascoltatori a lasciarci i loro ricordi. 349-238-6666, WhatsApp vocali. Arriviamo alle tematiche di oggi. Pierluigi, schiaffo della Federcalcio alla Serie A secondo qualcuno? Chi ha vinto, chi ha perso? Gravina ha vinto, ha perso, perché ha messo a rischio la sua rielezione nel 2021, perché la vendetta è una cosa che piace molto in questo paese. Insomma, come leggi questa situazione che si è creata ieri? Allora, innanzitutto faccio il radio tweet, lo faccio di 5 secondi, una sola parola: Balotelli, che è l'immagine comunque di questo ragazzo che non viene fatto entrare all'allenamento, insomma, è forse il momento più difficile, anzi senza forse, quindi io da fuori è sempre molto complicato giudicare, a me giudicare non piace mai. Coraggio, perché insomma la vita è lunga e si può sempre reagire, ma certo quell'immagine lì è l'immagine di una sconfitta. Chiusa la parentesi per Radio Bravo Twitter. Bravo Pier, grazie. Ma insomma, mi sembra che abbia vinto, forse ha stravinto, poi qui adesso mi affido Antonello, che di cose politiche ne sa certamente 100.000 più di me e ha molto più acume. Mi sembra che abbia stravinto, forse questo stravincere potrebbe alla lunga non essere la cosa più sana e più saggia politicamente, no? Certe volte è meglio vincere un po' meno ma mantenere un consenso più largo piuttosto che arrivare a una conclusione così clamorosa. Quello che è certo è che il campionato, insomma, deve ripartire, che i verdetti ci dovranno essere, che il merito sportivo deve essere la bussola capace di guidarci molto più di calcoli astrusi. Antonello, che dici? Ah, io direi che sono d'accordo che ha vinto il principio fondante dello sport, cioè il merito sul campo, il merito sportivo. La Lega, devo dire la verità, se n'è andata un po' a cercare, perché dopo la decisione del Consiglio federale del 20 maggio di bocciare un'analoga richiesta della Lega di Serie C di bloccare le retrocessioni, la strada era tracciata, quindi la Lega certamente ha tentato una forzatura spinta come al solito da quei 3-4 presidenti che già nelle settimane passate, nelle settimane precedenti, avevano tentato di non far ripartire il campionato, con qualche alleato anche doc, con qualche gufo da parata. Però voglio dire, questo secondo me influirà, non potrà che dare una spinta oggettivamente a quel processo di autonomizzazione, una parolaccia, di indipendenza che la Lega insegue sul modello della Premier League. Bisognerà un attimo stare attenti. Una cosa è certa e bisogna dirla con chiarezza, che Gravina comunque vada a finire la prossima rielezione della federazione, esce a testa alta da questa vicenda, non c'è dubbio, ha difeso il caldo e quindi si può guardare allo specchio tutte le mattine che si alza, non c'è questo dubbio. È sicuro, non tutti potranno farlo, non lui c'è sì, dubbio. Secondo me, lo dico con grande serenità. Al di là dei meccanismi delle tecnicali, come dicono quelli bravi, questo è il principio secondo me fondamentale, cioè c'è stato un momento in cui ci voleva ovviamente coraggio e spirito visionario nell'immaginare che da lì a poche settimane si potesse ritornare in campo. Gravina questo spirito ce l'ha avuto, mi sembra che questo sia oggettivo e che nessuno lo possa negare. Bisogna anche dire con altrettanta franchezza che il peso politico della Lega di Serie A, che è la locomotiva di tutto il treno del calcio italiano, è francamente ridicolo. 3 consiglieri, il 12%. No, quello non ha senso. Quello al di là di tutto non ha senso. La Lega di Serie C ha il 17%, pur avendo ridotto le sue società, i suoi club da 90 a 60, ha mantenuto il 17%. Bisogna mettere mano lì alla legge dello Stato, però, perché la legge dell'Anti fissa alcune percentuali, alcuni criteri. Ovviamente con una riduzione, come io mi auguro, dell'area professionistica, e quindi con un taglio alla Serie C che ormai è ineludibile se si vuole salvare il calcio di Serie C, io credo che la Lega di Anti avrà il diritto di recuperare gran parte del suo peso. Antonello, ha ragione Marotta nel dire che non è un problema di uomini ma di governance, che questo sistema vada rivisto, però questa è stata una decisione politica e il senso, a me sembra, Pierluigi, sia stato quello di mettere da parte di Gravina con le spalle al muro i falchi, perché se non volete giocare, se minacciate di fare i furbetti, vi do quello che non volete, e cioè playoff, playout, algoritmo, tutte queste situazioni poco gradite a chi non ha tutta questa voglia di ricominciare a giocare. Sì, sì, guarda, sì, io sono. Vai, vai, fratello. No, voglio dire, se noi riavvolgiamo un attimo il nastro degli ultimi due mesi, ci rendiamo conto che Gravina è stato capace di tenere il volante ben saldo in pugno, stanzando le buche, evitando di sdare e schivando anche il fuoco amico. Ce n'è stato tanto di fuoco amico e qualcuno ha schierato anche i bombardieri contro la ripresa del campionato. Ecco, questo voglio dire, dice molto sulla situazione e su quello che è accaduto. Ovviamente di fronte al pericolo, al rischio dei furbetti del tampone, sì, che farebbero perdere la faccia non a una società o a un presidente, ma a tutto il calcio italiano, è chiaro che la federazione ha preso delle contromisure, è arrivata addirittura ad equiparare il falso positivo o il positivo nascosto a un illecito sportivo, quindi al rischio di alterare una competizione. E quindi questo dice tutto, ha rafforzato organico degli ispettori, però la federazione onestamente più di questo non può fare. Il resto è affidato, come dire, all'etica, e qui apriremo un capitolo enorme, all'etica di tutti, però voglio dire, con il piano B che tranquillizza un po' tutti e il piano C che va al di là delle più rosse previsioni dei gufi, vuol dire la federazione porterà a termine la stagione nella maniera più responsabile possibile, sì, in base all'andamento ovviamente della curva dei contagi. Speriamo che questo maledetto incubo ci lasci campare. Sì, è tutto... devono essere opzioni residuali, questo è il tema, non devono diventare il centro del nostro ragionamento, insomma. No, ma è chiaro, cito però... proprio Arrigo Sacchi, che sì, abbiamo evocato prima, che l'ho anche detto l'altro giorno in una cosa che ho girato per DAZN. Lui dice sempre di circondarsi di ottimismi, di ottimisti e di ottimismi. No, ma il quadro di Antonello è molto realistico e anche molto triste, perché se pensi che in Spagna, ti ricordi, ne parlavamo anche l'altro giorno con Filippo Maria Ricci, in Spagna, ma ha confermato Tebas, piano C, non sappiamo neanche cosa sono, noi cominciamo a giocare, certo, e arriviamo alla fine, insomma, poi ne parliamo tra di noi. Così come era un dovere nei momenti difficili, quando francamente nessuno aveva voglia di calcio perché avevamo problemi enormi e ci sembrava impensabile la ripresa, così come era importante in quel momento lì provare a pianificare la mente una possibile ripartenza, adesso che la situazione è fortunatamente molto migliore e che si spera ci possano essere tutti i presupposti per concludere la stagione nella maniera più sana e più naturale, è giusto anche avere un piano B, un piano C, se le cose non dovessero andare in questa maniera. Io trovo tutto questo molto, molto corretto, cioè anche molto responsabile, perché bisogna considerare le varie ipotesi che possono esistere nella vita, nel bene e nel male. Sì, certo, bisogna anche considerare i potenziali furbetti del tampone, come li ha chiamati Antonello Valentini, e purtroppo in questo paese siamo coi furbetti, dobbiamo sempre fare i conti. Piuttosto, Antonello, si evoca il modello inglese, il modello Premier League, una Lega Calcio padrona delle proprie sorti, delle proprie formule, del proprio destino e anche dei propri soldi, però è una Lega Calcio che quella italiana, che come dice Crosetti è un'assemblea di condominio in cui non si litiga sui millesimi e sui parcheggi esterni. Quando io leggo, come oggi ho letto, l'obiettivo è di formare un club unico, sì, per tutti, come no? Mi viene francamente da sorridere, perché voglio dire ci si accapiglia su qualunque cosa, tranne che sui soldi, quando si firmano i documenti unitari, soltanto quando si parla di soldi. Per il resto le liti, i personaggi, i caratteri, i temperamenti, per carità, sono tutti un campionario di umanità di tutti i generi. Quindi, però devo dire, io non mi scandalizzerei se la Lega già perseguisse il modello della Premier League. Bisogna cambiare però la struttura complessiva del calcio italiano, anche dal punto di vista legislativo. Non ci dimentichiamo che quello del calcio italiano è un sistema di vasi comunicanti che si regge anche sul principio della mutualità. La Lega di A versa circa 130-150 milioni di euro ogni anno alle serie inferiori, cioè è per avere alcuni privilegi che le competono, è il motore produttivo di tutto il calcio. E capisci, io credo, che diventa difficile accettare di essere quelli che fanno però andare la barca, però non hanno il timone in mano. Sì, bisogna ridisegnare tutta la struttura del calcio, anche perché nella stessa Premier League questo, i sostenitori della Premier League, se si dimenticano di scriverlo, nella Premier League esiste esiste un diritto di veto comunque, sì, da parte della federazione, che può intervenire su qualsiasi decisione della Lega e bloccare le decisioni. Allora il discorso va fatto in maniera compiuta, non soltanto per convenienza o per interessi di bottega, altrimenti non ne usciamo mai vivi. Sì, è curioso notare, Pier, come ogni volta si evochi c'è un modello inglese da evocare, che riguardi gli stadi, che riguardi la governance, che riguardi tutte queste cose. Sembra un po' la terra promessa a cui non arriviamo mai. È vero, è vero. Gli inglesi hanno avuto nella storia una capacità incredibile di trasformare i problemi in opportunità. Tu pensa alla fermezza con la quale hanno affrontato il problema dell'hooliganesimo, no? Lì erano sicuramente i peggiori in giro per il mondo. Sono stati ancora per lungo tempo, soprattutto in occasione della start della nazionale fino a 20 anni fa, sicuramente non esemplari, però è stato affrontato il problema. E poi può piacere di più, può piacere di meno lo stadio inglese con i posti tutti seduti, per carità, ci sono anche i nostalgici della COP che sognano ancora il tempo in cui stavano tutti in piedi a due stadi uno sull'altro, verso il problema lì è stato risolto dopo il libro e dopo la Delta. Quindi dal punto di vista della Delta, aspetta che ti sento, ho cominciato a sentirti male, ti richiamiamo subito. Antonello, volevo chiederti una valutazione su come ti aspetti la ripresa dell'attività, non dei nostri programmi alla radio, perché quelli sono andati sempre avanti. Torneremo a parlare finalmente di calcio e meno di politica. Senti, io ritengo che, ho sempre sostenuto e sostengo, che la parte migliore del calcio siano gli uomini di campo, calciatori e allenatori. Confido nella loro professionalità e quindi penso, io non sono d'accordo con chi dice che sarà un calcio falso, un calcio taroccato, è un calcio anomalo, questo certamente, con una sequenza di partite molto stretta, molto serrata, però vuol dire, rendiamoci conto che stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando di gente che rivendica giustamente la sua professionalità, e io credo che andremo avanti, sperando di poter andare avanti nella maniera più seria possibile. Peraltro, giocare ogni 3-4 giorni è una cosa che ormai avviene frequentemente in tutti i campionati, specialmente del nostro, che è ancora a 20 squadre, come i maggiori campionati italiani. Quindi per il momento io penso che non ci sia questo problema, onestamente, di partite blande. Certo, l'assenza del pubblico ti priva di quell'adrenalina, di quella spinta, di quella carica, realtà, ci mancherebbe altro. Però io sono rimasto davvero impressionato in maniera negativa, lo dico con tutto il cuore, quando in Parlamento il ministro dello sport settimane fa, tra i motivi che elencava per non far ripartire il calcio, ci metteva anche il diniego o la contrarietà dei gruppi ultra. Allora, signori, no, vabbè. Non ci capiamo più. Allora. È una vicenda che abbiamo seguito minuto per minuto per molto tempo, e speriamo di dimenticarla alla svelta, tornando a parlare di partite fuori giochi, come sogna il mio amico Pierluigi Pardo, anche di bar. Grazie Antonello, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Buon lavoro, alla prossima, ciao. Saluto un altro grande ospite, ex presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, buongiorno presidente. Buongiorno. Le chiedo subito una sua valutazione sulla gestione di questo periodo da parte dell'attuale presidente federale Gravina. Ma la mia è una valutazione molto positiva, perché penso che presidente Gravina si sia mosso con determinazione, con l'obiettivo di riprendere a giocare, che è poi l'obiettivo fisiologico della Federcalcio, ma anche con prudenza e con rispetto nei confronti delle istituzioni, sapendo che il ruolo fondamentale lo svolgeva il governo e il comitato scientifico, perché la salute è una priorità per tutti i cittadini, per il paese e per tutti quanti noi. Dopodiché mi sembra che si sia mosso positivamente anche in occasione del Consiglio federale di ieri, perché è prevalsa una dimensione di merito sportivo sia in prima che in seconda opzione, quindi per quanto riguarda il campionato di Serie A, stagione regolare, e in seconda battuta playoff e playout, e soltanto in terza battuta, sempre nella logica del merito sportivo, che prevede promozioni e retrocessioni. In questo caso per promozioni si intenderebbero Champions League, Europa League, non scudetto e retrocessioni, ovviamente ok, utilizzando dei parametri, diciamo, di carattere matematico che hanno determinato tante complessità e perplessità. Certo, questo scontro, chiedo ancora questo, poi la lascio a Pierluigi Pardo, questo scontro con la Serie A, con la Lega Calcio, dove può portare? Può portare anche, dicevo prima, glielo chiedo brutalmente, a una ripicca che si tradurrà in mancata rielezione di Gravina? Ma sarebbe una visione mia per questa, se ci fosse una ripicca collegata al fatto che, avendo delle persone che tutelano diciamo un ruolo istituzionale, questo venga vissuto come una dimensione alternativa alla fisiologica tutela di interessi legittimi da parte delle singole associazioni. Le leghe che io ho avuto l'onore di presiedere, quella di Serie C, due volte ho fatto il commissario della Lega di A, sono dei soggetti che fisiologicamente tutelano gli interessi delle società associate, e quindi alcune volte è fisiologico che possono avere delle posizioni tra virgolette corporative. La federazione è un soggetto diverso, deve tutelare il bene comune, una dimensione di equilibrio, una dimensione di valori e di interessi di tutti. D'altro canto non si capirebbe per quale motivo, questo lo ha detto anche il presidente Ghirelli, nel momento in cui diciamo la Serie A ha votato all'epoca contro il blocco delle retrocessioni della Lega di C, a questo punto aveva l'aspettativa che ci fosse il blocco delle retrocessioni per l'A. Certo. E qui bisogna un attimino cercare di capire se c'è un interesse comune o se c'è una dimensione che ognuno porta alla lista della spesa. Questo è sempre accaduto. Guardi, ho fatto per quasi 8 anni il presidente della federazione, il ruolo del presidente della federazione è di in qualche modo andare avanti a prescindere. Sì, sì, quella lista della spesa, Pierluigi, è estremamente nota, Sì, sì, no, assolutamente no, io condivido completamente, chiedo, torno a quello che dicevamo anche con Valentini, c'è un tema di scarsa rappresentatività del calcio di Serie A, cioè il peso politico poi fase decisionale è un po' troppo poco, cioè adesso al di là del poter evocare addirittura il modello Premier League, però insomma da quel punto di vista si deve cambiare qualcosa per rendere... Sono perfettamente d'accordo che il peso sia poco. Teniamo conto comunque che c'è un peso numerico e c'è un peso politico. Il peso numerico deve variare, perché il 12% oggi rappresenta la Lega di A, è assolutamente poco rispetto alla dimensione di quello che vale la Lega di A, ma il peso politico non è dato tanto dal fatto di avere il 12, il 15, il 18, il 20 o il 25%, è quello di avere una leadership di un sistema che riesca a equilibrare gli interessi dei soggetti che fanno parte della Lega con gli interessi generali del calcio, e questo non passa attraverso i numeri ma passa attraverso la qualità del progetto. E io devo dire con tutta onestà che ho sempre avuto nelle 3 elezioni a scrutinio segreto il 95, 96, 97% dei voti, e quindi non ho di che dolermi rispetto a quello che è stato l'atteggiamento della Lega di A nei miei confronti quale presidente federale, però sarei intellettualmente disonesto se non dicessi che in qualche modo la Lega di A, tra virgolette, si è sempre aggiunta, come dire, a un consenso che in qualche modo non aveva maturato. Voglio dire, ma non perché, come devo dire, io volevo che si aggiungesse, perché è arrivata tardi rispetto a delle logiche, sono logiche di sistema, e quindi il cambiamento ci deve essere numerico in termini di peso elettorale, ma politico in termini di capacità di guardare oltre, non soltanto la tutela degli associati pro tempore. Sì, mi sembra tutto molto chiaro, penso sia un punto condiviso un po' da tutti, no, questo, Pier, della riforma legislativa. Quando abbiamo sottolineato in tutte queste settimane che l'importanza del calcio di Serie A, del calcio, diciamo, di livello apicale, è un'importanza ovviamente che ha un riverbero poi positivo su tutto il resto del sistema, perché sappiamo che gli introiti della Serie A poi contribuiscono a tutto il movimento e contribuiscono anche agli altri sport, quindi il calcio di Serie A non può vivere isolato dal resto del mondo, e siccome ha un ruolo importante, secondo me è anche importante che politicamente abbia una rappresentanza superiore rispetto a quella che ha in questo momento. Quindi questa è veramente un'anomalia secondo me che dovrebbe essere corretta, senza dividere, senza fare una gabbia di privilegiati della Serie A, perché è molto bello che la Serie A abbia questo meccanismo di partecipazione, di contributo agli altri sport, allo sport di base e alle serie minori, però poi in serie decisionale deve contare di più. Questo credo sia indiscutibile, ma credo siamo d'accordo tutti su questo. So che da Gravina in giù credo che siano tutti d'accordo sul fatto che non c'è una, non è la giusta proporzione quella che c'è adesso. Su una questione di buon senso. Presidente, le chiedo ancora questo: si parla di modello inglese, di modello Premier praticabile, secondo lei, da noi e con i nostri, diciamo così, attori? Ma guardi, tutti i modelli sono praticabili, purché si ricordi quello che diciamo a qualche giornale è sfuggito, diciamo alcuni giorni or sono, e che ad altri invece non è sfuggito, e che comunque anche nel funzionamento della Premier League esiste una sorta di diritto di veto della federazione su ogni tipo di decisione che viene assunta da parte della Premier League. Quindi i problemi collegati al ruolo della A rispetto alla federazione sono problemi che sono sorti ieri, perché ovviamente il risultato 18-3 in qualche modo ha rappresentato una realtà, come dire, che ha determinato un impatto forte da un punto di vista mediatico ed emozionale, ma sono problemi di sempre o da sempre. E quando io ho fatto il presidente della federazione, il modello della Premier League lo abbiamo studiato tantissime volte, sia per prevederlo sia per come devo dire, capirne gli effetti, ma fin tanto che rimane, come rimane anche nella Premier League, una sorta di titolarità della federazione a esprimere un diritto di veto, cambia assolutamente poco, perché comunque la Serie A è già molto autonoma sul versante dei diritti televisivi, del marketing, che peraltro giustamente diceva Pardo, voglio dire, c'è un contributo fondamentale sia a livello di ricchezza prodotta sia a livello fiscale. Il 70% di tutto il gettito fiscale dello sport è del calcio, però ricordiamo anche che qui siamo in presenza di una legge dello Stato, nel senso che non siamo di fronte a un atto di buona volontà. Chiarissimo. Grazie Presidente, grazie a voi, a buona trasmissione. Grazie. Pier, saluto anche te e ti sento domani. Bar senza tour oggi. Bar. Ok, ti ascolto. Ciao. Forza, torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Vattene amore, che siamo ancora in tempo. Credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no. I treni e qualche ombrello, pure il giornale. Leggeremo male, caro, vedrai. Ci chiederemo come mai. Il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò. Buongiorno Marino Bartoletti. Buongiorno, questa volta credo che il direttore artistico abbia pensato al mio dolore e ha immaginato che potevo dedicare solo Tottolino Amoroso a quell'infame che mi ha abbandonato, immagino per ripicca. Sì, certamente per ripicca e per vendetta, però abbiamo un protagonista di una squadra che 30 anni fa ci ha dato un sogno, ma anche credo il dolore più indimenticabile che molti di noi hanno vissuto, sportivo naturalmente. Ciao Riccardo Ferri. Ciao a tutti, Ricky. Un pensiero affettuoso a Marino. Ciao Marino. Guarda, ho passato la giornata di ieri a difenderti su Facebook da quelli che dicevano che in Italia e Argentina doveva entrare Vierkov. Io dissi che come tu e Bergomi, lo zio, marcasse Maradona, non lo poteva marcare nessun altro, il punto che venne annullato in quella partita. Ma non c'è mai la controprova, via, nel calcio è bello questo. Senti, Come si stava da giocatore dentro alle notti magiche? Beh, è stato un momento straordinario, straordinario, ma per come ci siamo arrivati. Era un gruppo che nasceva per gran parte dall'Under 21, quindi un gruppo coeso, un gruppo unito, ci conoscevamo perfettamente l'un con l'altro e poi avevamo questo grande riferimento che era Zelio Vicini, che insieme a Sergio Brighenti era per noi era un secondo padre. Io lo dico perché in quel tempo si potevano fare cose di questo genere. Faccio un esempio, c'era Giannini che non giocava nella Roma perché aveva avuto un calo di rendimento, aveva un po' di concorrenza e solitamente succedeva, se fosse successo adesso, magari non sarebbe neanche stato convocato magari in nazionale. No, allora invece lo stesso Vicini lo convocò in nazionale e lo fece giocare titolare, perché comunque in nazionale era Giannini era un riferimento molto importante. Uh-huh. E da lì poi riconquistò il suo posto nella propria squadra d'appartenenza. Questo per dire quanta stima e quanta disponibilità aveva il nostro allenatore nei confronti dei giocatori, che poi dopo, quando c'era l'occasione, poi ricambiavano per generosità, per affetto nei confronti di questo allenatore che per noi, ripeto, è stato un punto di riferimento importante. Sì, io, conoscendo un pochino Marino Bartoletti, so benissimo che quella è una delle squadre che più gli stanno vicino al cuore. Io credo che sia la squadra che mi sta di più vicino al cuore. E Riccardo è stato testimone dell'affetto anche personale che io avevo nei confronti di quella squadra, sì, di quei ragazzi che erano tanti dei miei ragazzi cresciuti nell'Under 21, di Vicini, perché se è vero che ieri ho perso molto tempo a difendere Ferri, purtroppo ho dovuto difendere anche tanto tempo a difendere Vicini, e quando sento brillare ancora adesso l'ingratitudine nei suoi confronti, come se avesse sbagliato lui un uscito, come se avesse sbagliato lui i rigori o come se avesse fatto chissà quale nefandese in quel mondiale, io mi indigno molto, di un'indignazione che va ben oltre l'affetto e la stima che avevo e che ho sempre per quest'uomo. Quella è una nazionale che Riccardo lo sa benissimo, Vicini aveva inventato dal nulla, plasmato, creato e portato a quei mondiali nel momento più perfetto del suo stato di forma e di grazia. E guarda, sto guardando in questo momento, Riccardo lo ricorda perfettamente, quando venni a Coverciano assieme ai miei fotografi alla vigilia di Italia 90 e chiesi a tutti i ragazzi della nazionale, altri tempi, altri deliri, di fare una foto di gruppo indossando una delle maglie delle nazionali che avrebbero partecipato a quel mondiale, cosa adesso assolutamente irripetibile. Vedo qui Paglica, io avevo la Germania. Tu avevi la Germania. Io ero campione. Ti piace mondo, vincere facile. Mentre Schillaci, che non se lo filava nessuno, fu costretto a indossare la maglia della Corea, che non voleva nessuno. Comunque ce l'ho, se ti fa piacere Marino, ce l'ho nel mio desktop che va a rotazione con tutte tante altre fotografie. No, ma questo, quindi, l'ho detto, sai perché, Riccardo? Per rammentare il clima che c'era, non tanto fra me, sì, e voi, fra me e la nazionale, ma all'interno di quel gruppo che era, sì, disponibile a giocare, a scherzare e a fare qualcosa anche di nobile dal punto di vista estetico, come questa immagine con cui salutammo tutte le nazionali che vennero da noi indossando la loro maglia. Ovviamente noi avevamo 24 maglie, 22 giocatori, e quelle dell'Italia e dell'Argentina campione del mondo le indossarono due bambini. Uno lo vedo sotto a Vialli che va alla maglia del Camerun, si vede anche quello che lo voleva, sì, vicino a te, però. Sì, sì, è vero. Solo un giocatore che non si è preso in fin in fondo quel gruppo lì, e tu lo conosci abbastanza bene, Marino. Lo conosco e che posso dire? Mi dispiace dal punto di vista umano, anche se lo stesso Roberto Mancini, perché è di lui che parliamo, che sicuramente a posteriori, ma anche allora, secondo me, avrebbe avuto ben altri diritti. A un certo punto della sua vita, dopo essere stato piuttosto, come dire, indignato nei confronti di Vicini, che d'altra parte poi era quello che l'aveva lanciato in nazionale fino a farlo diventare, Riccardo lo sa, titolare ai mondiali dell'88, però un bel giorno mi ha detto: adesso, dopo tanti anni di distanza, capisco che Vicini poteva avere le sue ragioni. E le aveva, sai, anche perché poi allora non dimentichiamo che in panchina ci stavano 5 giocatori, uno è un portiere, e quindi i cambi erano quelli che erano, e la tribuna virtuale era quella che era, e in campo c'era Stobaggio, a cui era molto difficile in quel momento dire di no, anche se non entrava sempre da titolare. Sì. Riccardo, ti chiedo ancora questo. Bergomi, leggevo a tutt'oggi il rimpianto di aver lasciato Roma dopo il primo ciclo di partite per andare a giocare a Napoli con l'Argentina. A te resta qualche altro rimpianto oltre a questo? Beh, quello lo condividiamo un po' tutti. Io, tra l'altro, ai funerali di Azeglio Vicini, subito dopo feci una chat senza dire niente a nessuno e la intitolai Notti Magiche, quindi ogni tanto interagiamo tra di noi e il rammarico è proprio quello di aver lasciato Roma, che al di là di tutto insomma si era creata un'alchimia con la città, con i tifosi, con l'ambiente, quindi per noi andare via da lì è stato sicuramente un passettino indietro. E poi non dimentichiamo quello che poi abbiamo trovato a Napoli, purtroppo per via di una serie di circostanze ci siamo trovati comunque una fetta dello stadio che non erano argentini ma che indubbiamente tifavano Maradona e non c'era la nazionale, quindi qualcosa si era un po' rotto in quel senso. Però ripeto, io l'ho rivista in questo periodo durante il lockdown, ho rivisto tutte le partite e l'ultima partita con la penultima semifinale con l'Argentina mi ha tolto di nuovo il sonno, per dirti che dopo 30 anni sono rimasto a guardare fino ai rigori e alla fine non ho dormito. Anche per te è stato il dolore sportivo più grande, no? Immagino. Sì, perché è un'occasione che per me poteva essere l'ultima, perché comunque ero uno di quei giocatori che ovviamente c'era tantissima concorrenza in quel ruolo, quindi poteva essere l'ultima occasione. Poi insomma per come si era sviluppato il tutto, no? Partendo dalla prima partita fino ad arrivare all'ultima, insomma abbiamo preso un solo gol in tutto il campionato del mondo, a parte diciamo la semifinale dove giocò Bjerkovic tra l'altro, Marino, prendemmo tre gol, cioè prendemmo il gol, e quindi voglio dire il rammarico è quello, veramente grosso, perché era un gruppo straordinario, ma lo dico perché ancora oggi la testimonianza è la chat che abbiamo su WhatsApp, dove siamo sempre molto attenti agli auguri, alle situazioni che si creano, alle problematiche di qualche nostro ex compagno che attualmente ricopre qualche ruolo importante. E quindi c'è molta coesione ancora oggi, che sono passati 30 anni. Sono cose che restano. Grazie Ricky, a presto. Grazie a voi. Ciao. Marino, un abbraccio affettuoso. Anche a te. Grazie. E beh Marino, nonostante l'assenza del tuo sodale, del tuo ex compagno di banco, ci stiamo divertendo. Io voglio il bar Ferdori poi, non lo voglio più, non lo voglio più, guarda, non, lo odio, sai dov'è in realtà, sai dov'è? No, è all'Arena di Milano, perché lui dal 9 giugno 1940, il giorno in cui Coppi, ventenne, vinse il suo primo Giro d'Italia all'Arena di Milano, è stato lì. Sono passati 80 anni, avevamo già una trentina d'anni tutti e due, ma lui tutti 9 giugno da allora, guerra compresa e coronavirus compreso, va all'Arena di Milano. E allora lo dico buttandolo un po' in cacciara, ma ricordiamo sempre che il 9 giugno precede il 10 giugno, tu dirai sì. Ma va. Il 10 giugno è successo un'altra cosa, di questo infatti volevo parlare con te subito dopo il traffico. Ma con piacere. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Ha pensato al recupero di Balotelli? Assolutamente no. Adesso io voglio bene Mario, adesso vuol dire, tanto Mario c'ha 30 anni, quindi no, assolutamente no. Allora, prima di andare su alcune pagine dello stesso giornale un po' distanti negli anni e di farle commentare a Marino Bartoletti, questo è Adriano Gagliani, conferenza stampa di oggi col Monza che arriva in Serie B, Berlusconi che torna nel grande calcio e il soggetto è quello che avete sentito, Balotelli. No. Dice Gagliani. Che deve dire di notte magiche se ne ha fatte vedere troppo poche, però Balotelli. Gagliani è un uomo pratico, eh. Io, guarda, devo dire, da padre persino da nonno non posso che essere addolorato per quello che è successo a Balotelli, come sono addolorato quando vedo che qualcuno butta via con le sue proprie mani un talento, una fortuna che il Signore in qualche modo gli aveva concesso. Io ho sempre detto che Balotelli non è facile giudicarlo, perché comunque è un ragazzo che sicuramente ha sofferto e porta dentro di sé il fuoco di sofferenze su cui noi non abbiamo il diritto di indagare più di tanto, però passate queste sofferenze e avendo trovato una famiglia meravigliosa, genitori meravigliosi, avendo avuto la fortuna di poter fare un mestiere sicuramente meno difficile di altri, più remunerativo di altri, beh, a quel punto avrei voluto che avesse continuato ad esistere quel Balotelli che abbandonava il riscaldamento di una partita degli europei per andare a baciare la sua mamma e il suo papà che ora non c'è più. Mi dispiace davvero perché è vero che ha avuto tanto, ma purtroppo è molto di più quello che ha buttato via. È una sconfitta di tutti, non solo sua. Sì. Senti, invece, tornando al tuo ex congiunto, che è all'Arena di Milano, hai postato due pagine su Facebook, in un meraviglioso post, due pagine della Gazzetta distanti 24 ore. Sì, è vero, perché ho detto che poi lo sport ha delle contiguità con la storia, con la S maiuscola, che a volte sono impressionanti. Guarda, io ho una frase che ripeto molto spesso, e che ci sono degli uomini e dei fatti che in qualche modo hanno causato la storia di questo paese, non sono nei libri di storia, e molto spesso questi uomini e questi fatti sono uomini e fatti di sport. Fra il 9 e il 10 giugno del 1940, quindi siamo all'ottantennale esatto, accade qualcosa che neanche uno sceneggiatore folle poteva immaginare, perché alla fine di quel Giro d'Italia, che era il 28esimo Giro d'Italia, sarebbe stato l'ultimo giro del Regno d'Italia, perché poi nel 46 sarebbe stato un giro repubblicano, accade che un ragazzo di 20 anni e 8 mesi, che si chiamava Fausto Coppi, vinse quel giro perché già si capiva di che tempra era. Lui era in realtà un gregario giovanissimo di Bartali nella Legnano, poi Bartali si infortunò alla seconda tappa, quindi dovette in qualche modo mollare. All'undicesima tappa, che andava da Firenze alla Betone, a Modena passando per la Betone, quindi doveva essere la tappa di Bartali in partenza, di Turrini all'arrivo, lui chiese il permesso di andare in fuga, interpretò il permesso a modo suo, naturalmente vinse con minuti e minuti di vantaggio, indossò la sua prima maglia rosa, e a quel punto Bartali dovette far buon viso a cattivo gioco. In pratica il 9 giugno all'Arena di Milano alle 6 del pomeriggio nacque un campione, anzi un campionissimo. Coppi aveva un avvenire meraviglioso davanti, in parte per fortuna lo ha realizzato, l'Italia si riconosceva in un campione meraviglioso, ma esattamente 24 ore dopo un signore che è nato dalle mie parti annunciò che l'Italia era in guerra, e quindi si passò immediatamente dall'alba alla notte, in 24 ore, senza neanche passare dal tramonto. Il titolo questa era la storia. Poi Coppi, cosa vuoi, fece ancora in tempo, essendo la guerra finita quando lui aveva 25-26 anni, a essere Coppi. Pensa a Bartali, poverino, che fu un atleta che vide stroncata la sua carriera dai 26 ai 31-32 anni. Togli quest'anni a un campione, a un atleta, a uno come Bartali, puoi immaginare che danno gli hai fatto. Poi è giusto dire che Bartali le sue medaglie le vinse anche durante come dire, quei cinque terribili anni di guerra, perché come tutti sappiamo poi salvò 800 persone andando in bicicletta quasi tutti i giorni da Firenze ad Assisi con delle carte false per salvare dai lager quegli ebrei, motivo per cui, l'ho già detto in trasmissione, nel museo della Shoah di Gerusalemme c'è un albero, una lapide dedicata a questo nostro giusto fra i giusti. Il 9 giugno 1940 titolava la Gazzetta per la cronaca: Fausto Coppi è il vincitore del 28esimo Giro d'Italia. Il 10 giugno la guerra dichiarata alla Gran Bretagna e alla Francia. La Gazzetta dello Sport ieri in prima pagina invece ha furto a casa di Diretta Leotta via 150.000 euro in soldi e gioielli. Sono cambiati un po' i tempi, mio caro. Beh, c'è stato un po' di stridore che ho fatto notare e ho rilevato anche oggi, per la verità, mettendo sempre la foto della Leotta e anche un altro quotidiano sportivo per parità, che a sua volta ieri ha messo la Leotta in prima pagina. Ognuno naturalmente è libero di fare quello che vuole e non intruire nella sensibilità e nel talento delle persone, dei colleghi che confezionano queste pagine, però curiosamente era stridente, come dire, il confronto, tant'è vero che oggi su Facebook ho fatto un post chiedendo: ma visto che il post sulla Leotta ha ricevuto il 600% in più di consensi rispetto a Coppi e alla storia che ho raccontato, ditemi dove ho sbagliato. Io posto la Leotta tutti i giorni, non c'è nessun problema. Poi voglio dire che la Leotta sia brava, sicuramente brava, ovviamente bella, che in qualche modo meriti consenso, questo è, mi dispiace che lei sia diventato un caso, come dire, emblematico, questo è sacrosanto, però dobbiamo fare delle riflessioni su quello che non i lettori vogliono, ma che chi confeziona i giornali pensa che i lettori vogliono. Senti, un'ultima cosa, Marino, la tua valutazione sulla giornata di ieri, ne abbiamo parlato prima ampiamente con Antonello Valentini, con Giancarlo Abete, eccetera eccetera, la tua valutazione sulla posizione che ha tenuto Gravina? Ma io mi tolgo il cappello davanti a Gravina, Carlo, perché in un momento in cui anche nell'ambiente calcistico c'era un certo tipo di disfattismo poco commendevole e di preoccupazione invece assolutamente comprensibile, lui ha sempre tenuto coraggiosamente, quasi da sognatore, la barra sempre dritta. Si è arrivati a questa conclusione. Abbiamo sempre detto che in Germania le cose funzionano perché si va in una stessa direzione e le persone non disturbano più di tanto e prendono atto di quello che è il bene comune. È successo anche in Italia, se la Serie A ha delle paturnie, Gravina, facendosi forte di una frase che possiamo parafrasare, può sempre dire: io non sono il presidente della Serie A. Il calcio riprende, onore a chi lo fa riprendere, mi sembra che non ci siano controindicazioni, ma è l'ennesima prova che questo paese, anche attraverso questo tentativo, ha tanta voglia di guardare avanti. Grazie Marino. Senti, allora il tuo congiunto lo rivuoi o non lo rivuoi più? Non ho capito. Per nulla. Per nulla, siamo alla rottura. Sì. Addirittura. Salvo poi abbracciarlo quando lo ritroverò, naturalmente. Ciao, grazie Marino, alla prossima. Ciao, grazie a te. Ciao Marino Bartoletti, io ringrazio anche Anita Panizzi in assistenza, Claudio Schiattone in redazione, Filippo Aurezio, Gianmarco Ferronati in regia. Tutti convocati domani alle 14, vi aspetto, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.